canzone, ma all'inizio di un servizio di informazione su come nasce in punta. Visto che siamo la frutta e non ci interessa il sapore, ma solo la buccia. E ci fidiamo dello yogurt, more lampone, lo mangiamo come le modelle alla TV. Vogliamo la repubblica delle banane, ci basta che ci sia un bollino più, ma le pere non basta farle vedere, bisognerebbe toccare per sapere. Sabrina Ferilli portava la prima, vediamoci 10 mirtilli nella vetrina. Per la fragola e la susina si suda, ma la vita si denuda e ci mostra una zucchina cruda. Abbiamo un clima buono per l'anguria fuori stagione, ma i noccioli chissà chi li ingoierà. Le arance le beviamo da dentro un cartone, pagando una cassiera che ci mostrerà le pere. Non basta farle vedere, bisognerebbe toccare per sapere se sono pere, pere, pere. In prima visione, come le melone, puntuale come mandarini a Natale. La donna sul mio calendario appare, si spoglia mese dopo mese. Una foto tira l'altra come le ciliegie, ma alcune pesche sono tese. Non vedi che la pelle tira, sembra troppo dura. Dici che è normale, non mi fido per natura. E tocco tutto quello che mi danno. L'uomo del monte dice sì, ma qui la confezione è troppo tra l'inganno. E sono prugne rape se chiediamo al bicocche una carota fatta a fette dentro dei boxer. Per le fragole champagne vi fa